Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a Votantonio, la trasmissione che cerca di raccontarvi come la politica viene cambiata dalla rete e come voi quindi potete provare a cambiare la politica con la rete. Vi ricordo come sempre i nostri riferimenti. C'è la nostra pagina Facebook che è VotaAntonioR24, l'account Twitter che corrisponde allo stesso nome, VotaAntonioR24. C'è il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T anche se si legge Spezia, e poi trovate molto materiale anche su www.radio24.it. Iniziamo come sempre da qualche chicca della settimana. Arte politica. Mi dicevi prima, Osvaldo, che per te l'arte è una cosa seria. Una cosa seria, molto seria, non si può prendere sotto gamba. È impossibile compendiare in pochi minuti la tua storia, perché sono anni che dipingi e sono anni che crei. Lo avevamo lasciato così, con Osvaldo Paniccia. Andrea Di Pré è a suo modo un mito della rete. Critico d'arte, così si presenta, ha deciso di fondare un movimento politico. Su segnalazione di Nom Fup, ossia Filippo Sensi, l'ultimo meraviglioso video, non penso che abbia bisogno di traduzione. Welcome everybody from Andrea Di Pré, art critic, with me in her office. Azora Raiz, the beautiful Azora Raiz. Hi everybody. Now here for our political party. Okay. Yes. I invite all our opposition to shoot in your balls. See you later. Bye bye. Tranquilli, vi scrivo. Non smetteremo mai di dirlo, internet non serve solo a farsi propaganda, ma al dialogo con i cittadini. Prendete l'ex presidente della regione Piemonte, Mercedes Bresso, tra l'altro, lo ricordiamo, unica componente del gruppo Uniti con Bresso in consiglio regionale, gruppo che dunque riceve i relativi finanziamenti. Siamo nel marzo 2010, piena campagna per la rielezione, in quel periodo spara una decina di tweet al giorno. Il primo aprile, a sconfitta assodata, scrive: vi ringrazio di cuore per i tanti messaggi di incoraggiamento che mi avete mandato. Qualche giorno di riposo e poi sarò di nuovo con voi. Da quel momento un solo tweet in 2 anni, ma vi pare. Segnalazione originariamente di Luca Becattini. Faceblack. Face black, ossia faccetta nera. Parliamo del figlio del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che si è fatto ritrarre, lo sapete, mentre faceva il saluto romano sull'isola di Mykonos. Foto postate su Facebook, riprese dall'Huffington Post Italia. Il sindaco fa notare che il ragazzo è minorenne e che quindi l'operazione mediatica non è un granché corretta. Sia quel che sia, siamo in un'epoca nella quale bisogna fare la massima attenzione non solo a quello che si dichiara, non solo a quello che si scrive in rete o sui social network, ma anche a quello che fanno i propri familiari, di qualsiasi età. Il primo cittadino della capitale, che tra l'altro vuole ricandidarsi, farà bene a tenerlo presente d'ora in poi. Pubblico pagato. L'onorevole Domenico Scilipoti, Scili per gli amici della Zanzara, fa partire una grande battaglia contro Equitalia a sostegno delle famiglie italiane, così recita il comunicato. Raccolta firme per una legge contro l'impignorabilità della prima casa. Sul sito la foto del gazebo in piazza Montecitorio ritrae la grande composizione multietnica del Movimento di Responsabilità Nazionale. Sulle 10 persone ritratte con la maglietta del partito, 2 sono di colore, 2 apparentemente di origine maghrebina, un altro che sembra di origine indiana o pakistana. Molto bello. E chi sostiene che sia pubblico pagato dice malignità francamente inaccettabili. Ecco. Obama. Romney. Ready, set, go. As president, I will sit down day one, sit down with leaders for a couple hours, talk about the issues, talk about the challenges,

Grazie dunque a Filippo Sensi, lo trovate sul web e su Twitter come NomFoop, non mi metto a fare lo spelling perché poi diventa troppo complicato da capire in radio, comunque NomFoop e poi nomfoop.wordpress.com, lo trovate anche naturalmente sul sito di Europa del quale è vice direttore. E un'ultima cosa che vi voglio segnalare, se fate una ricerca su Twitter con l'hashtag l'America decide, trovate un interessante dibattito che è avvenuto nella sede dell'ambasciata americana, nella quale c'era appunto anche Filippo Sensi. Filippo, grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Come sempre, dopo il punto di Stefano Folli, veniamo ai numeri. I numeri che abbiamo selezionato questa settimana con Riccardo Puglisi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Lo trovate anche su Twitter, come sempre ve lo ricordo, Rick Puglisi. Tutti i nostri riferimenti invece sono sempre su www.radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook, l'account Twitter nostro, il mio, insomma c'è tutto quanto. Riccardo, questa settimana siamo andati sul bersaglio grosso, ci siamo occupati del Presidente del Consiglio, Monti. Esattamente, in questa settimana mi sono occupato di studiare il modo in cui è stato citato Monti negli ultimi 8 giorni, cioè a partire dal mercoledì 26. Anche perché la settimana appena trascorsa, i 10 giorni appena trascorsi sono stati quelli nei quali ha prima detto che sarebbe stato disponibile eventualmente a servire di nuovo il paese e poi ha detto di nuovo lasceremo il governo ad altri. È quello che è accaduto, infatti questo tentennamento, questo forse di origine strategica, non sappiamo, che si è verificato tra il giorno 27, giovedì, e nel momento in cui Monti ha sostanzialmente dichiarato questo, se si creano le circostanze per cui potrò dare un aiuto non precludo nulla, mentre poi il lunedì, cioè il primo ottobre, la dichiarazione è stata lasceremo il governo ad altri. Quindi ci sono queste due dichiarazioni e il numero di tweet, il numero di messaggi è esploso sostanzialmente da mercoledì 26 a giovedì 27, perché si è passati da 118 messaggi tweet 5T che contenevano l'espressione cancelletto Monti a sostanzialmente 1300, quindi praticamente 10 volte tanto. C'è un effetto per cui poi si è andato avanti con venerdì, sabato c'è una discesa, perché credo sia una discesa fisiologica, per cui il giorno in cui si twitta di meno, si sta con le famiglie o si fa altro, è il sabato, e poi un'altra volta un salto col lunedì, quindi con la successiva dichiarazione per arrivare ancora a 1000. Chiarissimo, messaggi. Come sempre a noi interessano i numeri perché li andiamo a guardare e li diamo, ma quello che ci interessa poi alla fin fine davvero è il contenuto. Possiamo dare un'idea generale di che cosa è contenuto in questi tweet, Riccardo? Possiamo dare, appare un quadro abbastanza chiaro, ovvero sia che la notizia traspare, cioè la notizia passa, viene passata attraverso i retweet eccetera eccetera, quindi le parole che compaiono sono esattamente quelle dell'annuncio. Appena dietro alla notizia in sé appaiono i commenti di quelli che potremmo definire opinion leader, ovvero sia persone che stanno su Twitter, che hanno un ruolo politico o giornalistico, che commentano, e questi commenti vengono retweetati insieme alla notizia o dopo la notizia. Quindi si conferma su tutto che la trasmissione della notizia è l'elemento principale e poi appunto arriva il commento. Commento che a questo punto non è degerarchizzato, insomma, come si potrebbe immaginare, ma in realtà c'è una gerarchia ben precisa. Infatti, quali sono i tre tweet più forti? Certo, direi che è una piccola illusione il fatto che Twitter può essere un mezzo democratico, ma appunto c'è una certa gerarchia con la presenza di opinion leader. I tre messaggi che sono largamente più retweetati, quindi continuano a apparire nei tweet, sono schierati, sono messi su un orizzonte politico, uno schieramento politico interessante, perché abbiamo un messaggio di Calabresi, di Mario Calabresi, il direttore della Stampa, che fa un commento favorevole, perché dice: ma pensate cosa sarebbe successo se Monti, cancelletto, avesse detto che mai poi mai farebbe ancora il premier, un crollo di fiducia internazionale. Quindi un messaggio positivo, direi centrista, di Calabresi. Dall'altra parte c'è un messaggio di Luca Telese, che è il secondo messaggio più retweetato, che è il seguente: una cosa è certa, con Monti finalmente ci stiamo riprendendo il posto che secondo i banchieri ci spetta in Europa, l'ultimo. Quindi il messaggio sembra partire estremamente positivo e poi invece c'è il fulmine in clausola, quindi c'è la botta finale negativa. E l'altro messaggio, che quindi diciamo sta a destra ma è sempre critico, è quello di Giorgia Meloni, la quale ha dichiarato, ha twittato: non mi candido neanche stavolta, ma se volete governo di nuovo. La curiosa idea di democrazia di Cancelletto Monti. Chiarissimo, dal punto di vista delle parole ci sono note particolari che possiamo fare? Possiamo fare una nota? Per parole intendiamo il contenuto dei tweet, cioè che parole ci sono dentro al di là appunto di quelle esatte dette da Monti. Io farei una piccola premessa, che a parte gli opinion leader è interessante il fatto che ci sia abbastanza dialogo, ovvero sia gli utenti si rispondono tra di loro con una percentuale che pari al 11-14% dipende dai giorni, quindi sono dei numeri interessanti di dialogo. Quelli che compaiono comunque sono gli attori politici, quindi compare Monti evidentemente, compare Casini, Bersani, compaiono giornalisti e poi compaiono parole legate al tema stesso e legate quindi al tema del fatto di assumersi la responsabilità o non assumersi la responsabilità, quindi ancora i termini italiani, per esempio, il termine paese, quindi termini patriottici che fanno riferimento al ruolo di Monti o al non ruolo di Monti, ma anche termini negativi, per esempio il termine basta compare abbastanza spesso, quindi ci sono quelli che sono contrari alla cosa, e compare l'aspetto dubitativo della faccenda, ovvero sia bis appare molto più spesso con punto interrogativo. Questo il quadro, grazie a Riccardo Puglisi anche per questa settimana. Riccardo, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Se ne fece un gran parlare una quindicina di anni fa, quando in Italia non solo si iniziavano a muovere i primi passi nella rete. Ora la parola netiquette ci fa quasi tenerezza. Ci fu anche un tentativo di codifica di questa sorta di galateo della rete che prevedeva regole per le email e per il comportamento sui social network. Regola d'oro all'epoca era, che valeva per le mail, non inviare ad altri ciò che troveresti tu stesso sgradevole ricevere. Niente da fare, non è durata. Questa è l'era dei troll. Cosa sono? Ecco. È facile. Ecco, dici sì. Con la parola troll si indica una persona che interagisce con altri utenti nei social network, nelle chat, sui forum, nei blog, con messaggi provocatori, irritanti, fuori tema, senza senso, offensivi. Il termine ha due origini. Il troll è innanzitutto una mitologica creatura dell'Europa settentrionale, specie di gigante brutto e rozzo, una sorta di orco, insomma. L'altra è il verbo inglese to troll, che è sostanzialmente un tipo di pesca a strascico. In italiano è entrato in uso anche il verbo trollare. Tra costoro c'è chi sceglie l'insulto, chi sempre la stessa argomentazione, reiterandola ossessivamente, impermeabile alle controosservazioni. Stephen Kinsella, sul blog No Opinion, ne ha stilata una vera e propria tassonomia per quanto riguarda quelli che frequentano e commentano sui blog economici. Altre classificazioni più generali identificano alcune categorie. I troll che ce l'hanno con qualsiasi cosa venga fatta da una grande azienda, quelli che vedono un complotto dietro tutto e accusano il blogger di farne parte, quelli affetti da pedanteria grammaticale, quelli che scrivono a caratteri maiuscoli insultando tutti e tutto. Gli esperti che conoscono ogni minimo dettaglio dell'argomento del quale si è scritto e godono a far notare che si è sbagliata proprio quella virgola che per loro, manco a dirlo, è fondamentale. Chiunque sia in rete ha un suo troll ed è stato o è presumibilmente il troll di qualcun altro. Questo è il quadro generale. A nostro giudizio se ne è aggiunta una specie particolare con l'incremento della presenza dei politici sui social network. I troll a loro dedicati. Ce n'è uno che è stato addirittura oggetto di un comunicato stampa di Sinistra Ecologia e Libertà. È l'uomo che ha scritto a Nichi Vendola su Twitter: tu devi essere addomesticato dal popolo e poi eliminato dalla faccia della terra, comunista filo ebreo, e via dicendo. Il resto è irripetibile. In tutto in risposta peraltro ad un tweet di Vendola che riguardava le primarie. C'è chi risponde da troll ad un troll come Maurizio Gasparri, che scrive un tweet dedicato al calcio, riceve risposta di un utente che gli dice che nemmeno di quello capisce niente e replica seguito da 48, imbarazzante, una sorta di celolunghismo 2.0. Bella definizione questa trovata sul blog frasifatte.wordpress.com. Beh, sul fenomeno abbiamo sentito tre politici. No! Anna Paola Concia, deputata del Partito Democratico. Quanti insulti beccate? Ma moltissimi. Io che sono sui social network da molti anni, insomma da quando è nato Facebook e da quando è nato Twitter, e li uso personalmente, e naturalmente la gente lo sa, se li usi personalmente lo capisce bene, è chiaro che lì, diciamo, la tentazione all'insulto aumenta quando sanno che sei tu, perché io poi sono una un po', diciamo, una persona diretta, una che affronta le cose. Io rispondo, a volte per esempio su Twitter, quando sono proprio molto pesanti, e ne ho avuti pesanti sulla mia omosessualità, come puoi immaginare, c'è un repertorio bello vasto, ma io li ritwitto per esempio, e lì è molto interessante, perché quando li ritwitti le persone li isolano, no? Per esempio ho notato che prima su Facebook era molto molto frequente, poi ho cominciato a lavorare molto su Twitter e la cosa era meno violenta. Adesso per esempio la violenza si è spostata molto, sempre insulti decontestualizzati, no? In cui tu parli di una cosa e ti vomitano addosso tutto il disprezzo verso la classe politica, che è una cosa ovviamente per gente come me, che non sono, diciamo, sono lontana anni luce da Fiorito, è un po' faticoso, no? Roberto Rao, deputato dell'UDC. Ne becchiamo tanti e bisogna capire anche perché. Molti insultano perché non hanno capacità anche di capire l'ironia, le battute. La prevenzione nei confronti della politica si coglie dappertutto. Figuriamoci in rete. Il fatto di essere considerati tutti uguali. Qualche settimana fa Casini ha mandato una fotografia su Twitter del treno Italo, lui davanti, e la dicitura, erano i giorni della polemica con Montezemolo, è la concorrenza a bellezza. Due terzi dei commenti, sono arrivati circa 300 tra Facebook e Twitter, erano semplicemente relativi a chi avesse pagato il biglietto nella tratta Roma-Napoli. L'ambiente ostile che certe volte si crea in rete sembra quasi costruito ad arte, anche con mezzi organizzati. C'è una strategia dietro? Io temo che ci sia una strategia dietro. Quando si carica un video su alcuni argomenti particolari, e non parlo soltanto di Grillo, ma anche di Grillo, e dopo pochi minuti si trovano talmente tanti commenti negativi, spesso insultanti e spesso fatti quasi in fotocopia con dei nickname un po' strani, io credo che dietro ci sia anche un grande investimento. Questo che significa? Che un'altra persona che va a vedere è già condizionata nel giudizio da tutti questi, da questo mood negativo. Andrea Sarubbi, deputato del Partito Democratico. Gli insulti sono parecchi, perché chiaramente quando ci metti la faccia il primo schiaffo che vuole è tuo, questo è sempre così, insomma, in particolare in questo momento d'antipolitica è logico che metterci la faccia significa anche beccarsi le pacche agli amici miei, diciamo così, insomma. Alcuni insulti vengono solo per il fatto che tu sei un politico e in particolare un parlamentare, categoria più odiata del momento, per cui anche se parli di calcio, a me è capitato, vieni poi azzittito prima con minacce fisiche e poi comunque con epiteti tipo magnaccia, zitto, onorevole, mangiapane a tradimento, eccetera eccetera, insomma vi appenderemo ai forconi e cose di questo tipo qua. La cosa migliore che mi hanno detto nell'ultimo periodo a livello di complimenti è torna a fare il giornalista. E poi ci sono invece altri tipi di troll che secondo me però sono peggio degli altri, perché sono quelli ideologici, cioè se non la pensi come loro diventi vittima proprio di uno stalking, diciamo così, insomma, da un punto di vista digitale. Cioè mi è capitato più volte, per esempio con i Notav capita moltissime volte, perché lì hanno poi uno stalking organizzato, diciamo che uno ti prende di mira e gli altri 15, 20, 30, 50 che seguono quel giro poi cominciano a prenderti di mira. capita a volte anche di commettere alcuni errori, alcune imprudenze, no? Anche su Twitter eccetera, ma è naturalmente normale quando ci metti la faccia. E lì, se diciamo viva voce, ti possono essere anche perdonati. Sui social network è più difficile, perché quello che metti comunque rimane sempre. Io ho imparato nel corso dei mesi a rileggermi un tweet almeno 3 o 4 o 5 volte prima di pubblicarlo, e dico che ogni 3 tweet che io scrivo un paio li butto. Le interviste integrali, se vorrete ascoltarle, le metteremo sul nostro sito www.radio24.it. Saluto Fabio Chiusi, buongiorno Fabio. Buongiorno. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Stiamo parlando dunque di questa figura, i troll, lo facciamo con Fabio Chiusi, vi ho detto che l'avrei presentato dopo la viabilità, a questo punto mi autodenuncio. Fabio Chiusi è uno dei miei blogger preferiti, a volte non concordo con quello che scrive, ma secondo me a livello di profondità, capacità di argomentare e capacità di scrittura, ripeto, è uno dei migliori. Lo trovate ilnichilista.wordpress.com, mi sbaglio Fabio? No, perfetto, grazie. Giusto, l'altro. Collabora anche con La Lettura e con L'Espresso e in vari altri luoghi. E a questo tema, il tema dei troll, ti sei dedicato, Fabio. Un punto, un quadro innanzitutto. Sì, è quello che dicono Concia, Sarubi, Rao, è vero sicuramente. Secondo me non bisogna però perdere di vista il fatto che c'è sempre un aspetto giocoso nel troll, no? Cioè, altrimenti si rischia di finire per identificare il troll con chi insulta e basta. Il troll di norma è uno che cerca di deviare il discorso, è vero, ma lo fa o per farsi quattro risate e per vedere se l'altro abbocca, oppure lo fa per dimostrare... E di qui la derivazione dal verbo che riguarda la pesca. Assolutamente, assolutamente. Oppure lo fa per dimostrare l'ipocrisia su certi temi, no? Era diventata famosa la pagina, quella del uccidiamo i bambini down, una cosa del genere su Facebook, e lì insomma il tentativo che poi era emerso spiegandosi all'interno della community, diciamo, era che questo avrebbe voluto creare consapevolezza su questo tema mostrando l'ipocrisia dei media che riprendono certi temi solamente quando se ne parla in modo trollesco, peraltro, no? E la cosa che mi ha colpito di quello che ha detto l'onorevole Concia è vero, nel senso che è vero che il troll prima stazionava molto più su Facebook che su Twitter, anche secondo me, e questo dimostra che il troll va dove c'è l'attenzione dei media. Quindi in realtà i troll sono un po' anche il prodotto dei media, che danno un'attenzione spasmodica su certi strumenti, no? Allora, Roberto Rao parla di una strategia. Secondo te c'è una strategia? C'è qualcuno che sta impostando una qualche forma di strategia da questo lato? Naturalmente immagino che quando si parli di strategia si pensi a qualcosa come il Movimento 5 Stelle. Oddio, guarda, io non sarebbe niente di nuovo, nel senso che comunque è una tattica messa in atto da governi di tutto il mondo ed è un'alternativa molto potente ed efficace alla censura, no? Alla repressione, perché non suscita, diciamo, la riprovazione a livello internazionale, si può fare propaganda tranquillamente, no? Creando profili multipli. Io non sono personalmente a conoscenza di alcuna, diciamo, di alcun piano da parte dello stratega, il mastermind, no? Del Movimento 5 Stelle, Casaleggio. Potrebbe anche darsi, non ci vedrei neanche niente di particolarmente strano, insomma, però ecco, ci andrei cauto con le accuse, perché sicuramente una delle caratteristiche del Movimento 5 Stelle è di avere una community, diciamo un corpo elettorale, se vogliamo chiamarlo così, ormai molto, molto affezionato e molto motivato, e per cui molte volte, diciamo, prende proprio... Sono persone che vanno lì a voler argomentare di loro senza che sia molto bisogno di spingerla, diciamo. Hai percezione, Fabio, frequenti la rete da molto, di un imbarbarimento del linguaggio che anche in conseguenza dell'approdo non solo sulla rete ma sulla scena pubblica in maniera più potente del Movimento 5 Stelle, di Grillo e dell'utilizzo di quel tipo di linguaggio, insomma lo sdoganamento del vaffanculo, se vogliamo, ci sia stato un imbarbarimento del linguaggio anche in rete? Guarda, io non lo credo, perché non mi sembra... Ho comprato qualche tempo fa in una libreria dell'usato i vecchi resoconti delle sedute parlamentari che aveva fatto Andreotti, e anche lì volavano insulti anche durante la Prima Repubblica, che Dio li mandava, diciamo. Per cui non lo so, è un tema molto dibattuto. È uscito da poco un pezzo sul Wall Street Journal che anticipa uno studio dell'Università della Columbia, mi sembra, di Pittsburgh, che cercava di mostrare appunto le ragioni, si chiedeva appunto se siamo diventati perché siamo così rudi e violenti su Facebook? Beh, loro dicono alla fin fine non ha molto a che fare con l'anonimato, visto che poi su Facebook l'anonimato tutto sommato è molto limitato. Potrebbe avere a che fare col fatto che noi cerchiamo di costruirci un'immagine di noi stessi, no, idealizzata, e che quindi cerchiamo di contrastare molto fortemente qualunque minaccia possibile a questa immagine ultra positiva di noi stessi. È un modo di darci un'identità, quindi di autodarci un'identità. Potrebbe darsi, certo, questo comporta una forma di dualismo digitale, se vogliamo, cioè comporta il fatto che noi ci comportiamo in maniera diversa su internet rispetto alla vita reale, e questa è già in sé un'ipotesi che è tutta da dimostrare, diciamo. Chiarissimo. Il punto troll mi sembra che in linea di massima l'abbiamo esaurito, anche se molto ci sarebbe da dire. Io ti vorrei coinvolgere anche su un altro punto, Fabio, perché su Valigia Blu, blog collettivo, hai scritto un pezzo secondo me molto interessante, ed è un'opzione da valutare tanto per i grandi giornali quanto per i cittadini, che riguarda le nostre elezioni, le elezioni in arrivo. Perché? Perché c'è stato questa settimana, come sapete, il dibattito tra Obama e Romney. A prescindere da chi abbia vinto o abbia perso, è stato messo in campo un sistema di fact-checking abbastanza possente. Ci spieghi innanzitutto che cos'è? Ma il fact-checking semplicemente significa prendere delle affermazioni di fatto verificabili, il più possibile verificabili naturalmente, quindi non sul sasso degli angeli, ma per esempio abbiamo ridotto le tasse di, no? Oppure ridurremo le tasse di, si può fare anche sulle promesse, quindi monitorare le promesse e cercare di metterle a confronto con i fatti, con quello che poi i dati, il più possibile naturalmente, perché non sempre è facile o possibile ricondurre ai fatti queste affermazioni. Ed è una cosa che è stata fatta in maniera massiccia per questo dibattito. L'hanno fatto delle redazioni che hanno appunto dei siti dedicati, come può essere politifact.com, factcheck.org e altri siti. L'hanno fatto testate mainstream, ho visto che anche il New York Times ha messo in campo diversi giornalisti, l'ha fatto il Washington Post che ha un blog apposito, l'ha fatto la CNN, tra l'altro mi sembra anche in televisione. Per cui c'è stato un coinvolgimento dei media mainstream più grossi e delle maggiori competenze, delle migliori competenze, diciamo, di questi media. Una cosa che mi piacerebbe vedere anche in Italia, questo era un po' il punto, no? Davo anche dei consigli su come poterlo fare al meglio, ma sarebbe bene che questa cosa fosse almeno posta all'attenzione, no? In realtà in America questa roba va avanti da tempo, come al solito, no? Certo. E qui nasce la grossa domanda, no? Perché da loro è una cosa che funziona già da anni e da noi invece continua? C'è un progetto di fin corso, no? Che l'ha fatto, ha aperto questa piattaforma, e tutto questo è, diciamo, cioè c'è il clima, è decisamente dimostra che siamo pronti, no? Anche questa attenzione che diceva Sarubi verso i politici, cioè dimostra che ci sarebbe. Il difficile è riuscire a tenere alla larga le orde di propaganda, no? o di invasati che vengono qui a dimostrare, che vanno lì a dimostrare un'ipotesi preconcetta, piuttosto che a approcciare in maniera laica le frasi che bisognerebbe smentire o verificare, insomma. Grazie a Fabio Chiusi anche per questo. Trovate tutti i link alle cose delle quali abbiamo parlato, nonché i link che si riferiscono al nostro ospite di oggi, sul nostro sito www.radio24.it. Vi ricordo ancora una volta la pagina Facebook di Vota Antonio, Vota Antonio R24, che è anche l'account Twitter. Se volete potete anche seguire me, se vi aggrada. Su Twitter è Simone Spetia, si scrive con la T, anche se si legge Spezia. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio Fabio Cantadori per l'assistenza tecnica e vi auguro una buona giornata.